Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Io penso che l'idea di esplorare lo spazio sia diffusa in tutto il mondo, ma penso che il fatto di perseguirla solo per cercare di mettersi in contatto con una razza superiore, dotata di un'intelligenza superiore, che voglia contribuire a evolvere il nostro mondo, sia un errore. Se davvero c'è qualche specie del genere là fuori, intendo. Perché se ci fosse, non dovrebbe avere nulla a che fare con noi. L'unica cosa che la razza umana riesce a fare in maniera perfetta è incasinare le cose. È così semplice per qualsiasi organismo umano distruggere qualcosa. Perché noi abbiamo questa capacità di inventare cose che distruggono. E nessun altro organismo, nessun animale ha questa capacità. Possiamo progettare la distruzione della natura nel nostro mondo su vaste aree perché abbiamo la capacità di farlo. Quindi mi viene da pensare che se entrassimo in contatto con un'intelligenza superiore, farebbero un favore a tutto l'universo se cancellassero ogni traccia della razza umana dal cosmo il più in fretta possibile. Prima che noi diventiamo talmente abili da diffondere tutte le cose terribili che riusciamo a creare in altri ambienti. Se è vero che la musica possiede la capacità di travalicare i propri confini per raggiungere la vetta di espressione globale dell'essere umano, è pur vero che non tutti possono riuscire in questa impresa. Esiste infatti un livello oggettivo di complessità nella ricerca che implica la totale dedizione a questo tipo di impresa. E vivere con il solo scopo di dedicarsi esclusivamente alla musica è già di per sé un fatto raro. Ma non basta, perché la sola dedizione senza quel pizzico di follia è inutile. Più ci si avvicina alla verità, più la mente vacilla. C'è stato un uomo in particolare che ha avuto il coraggio di gettarsi in un'impresa del genere. Un uomo che ha individuato nella musica il suo mezzo di espressione e lo ha spinto fino ai suoi estremi. Un uomo folle, un uomo grande, un uomo solo per certi versi. Il suo nome è Frank Zappa. Dal momento che non ho avuto alcun tipo di formazione, non ha fatto alcuna differenza per me ascoltare Slim Lighting o un gruppo vocale chiamato I Gioielli o Weber, Varese o Stravinsky. Per me era tutto buona musica. Non cercate di capirci qualcosa. Non cercate di trarne delle conclusioni, perché ve lo diciamo in anticipo, è impossibile. Ancora oggi, a 20 anni dalla sua scomparsa, la vita e le opere di Frank Zappa non hanno trovato un compimento. E forse non lo troveranno mai. Merito colpa tra gli altri della sua sterminata produzione, a cui di recente si è affiancato del materiale inedito. E molto altro è in attesa di venire a galla, preso in chissà quali anfratti. È il destino beffardo e traditore di chi ha osato spingersi nelle zone più buie, quello di venire avvolto dalla stessa oscurità che ha sfidato. E così è stato per Frank. Ma questo naturalmente non ci vieta di apprezzare quello che di buono c'è. Per esempio, ascoltare la sua musica. Save your money, don't go to the show. Well, I turned around and I said, ho, ho. Well, I turned around and I said, ho, ho. Well, I turned around and I said, ho, ho. And the northern lights commenced to glow. Chitarrista, batterista, compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra, cantante e produttore. E questo solo per rimanere nel campo strettamente musicale. Ci sarebbe anche il cinema, senza contare le sue lotte politiche e civili. Questo è Frank. E poi gli amici, i musicisti con cui ha collaborato. Una cozzaglia di creature strane e meravigliose, come sommare Alice nel Paese delle Meraviglie, Pinocchio e il Rocky Horror Show insieme. Raccontare la carriera di Frank Zappa è un'avventura di quelle di cui conosci l'inizio, ma non hai la più pallida idea di quale sia la fine, e anche se ci sia una fine. Per me non è importante essere ricordato. Voglio dire, la gente sente un gran bisogno di essere ricordata. Penso a gente come Bush, Reagan. Questa gente qui vuole essere ricordata. E spendono un sacco di tempo e di denaro per essere sicuri che il loro ricordo rimanga. No, non mi interessa. The mystery man came over and he said, I'm out of sight. He said, for a nominal service charge, I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing and able to pay him his regular fee, he would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said, una vita dedicata totalmente alla musica ha bisogno di cominciare presto. Niente di più semplice. Frank a 13 anni sa già suonare la batteria. A 14 compone il suo primo pezzo da camera. E a 15 imbraccia la chitarra, tutto rigorosamente da self-made man. C'è una piccola parentesi accademica in realtà, ma 6 mesi non possono certo essere utili. Inoltre, non è dalle cattedre che Zappa attingerà per placare la sua sete, piuttosto da quello che lo circonda. E siccome il padre lavora nell'industria militare, quello che lo circonda da giovane sono armi e maschere antigas. Il risultato saranno un'indole ribelle, una serie infinita di spostamenti e una salute cagionevole. Tutto materiale che concorrerà a formare l'artista, perché la musica, in quanto arte, a questa capacità non si accontenta dei propri confini, ma si spinge oltre, in cerca di materiale. Frank, che cosa ne pensi dei Beatles? Oh, erano ok. Non sono mai stato un grande fan dei Beatles, così come lo ero dei Rolling Stones. Penso che i Rolling Stones fossero più vicini a me, che mi interessassero di più per le basi di rhythm and blues che hanno usato in ciò che hanno fatto. Una base rhythm and blues è una buona base, anzi ottima. Ogni bella storia dovrebbe cominciare con una base rhythm and blues. Questa è la filosofia che accompagna la crescita del giovane Zappa alle prese con la sua decisione di mollare tutto, famiglia compresa, e vivere solamente di musica. Per sbarcare il lunario compone brani per gli spot delle TV locali e suona nei bar con un gruppo che si chiama Blackouts. 3 neri, 2 messicani e 2 bianchi che alternano blues dai ritmi strascicati al doo-wop delle grandi melodie. Una band atipica, soprattutto per quel tipo di musica, ma è nel DNA di Frank essere atipico, e i Blackouts sono le prime di altre 1000 espressioni della sua particolarità. Di questo strano guazzabuglio iniziale fa parte il primo magnifico destino di oggi. Il suo nome è Euclid James Sherwood. Jim era capace di eseguire una danza che chiamavamo The Bug, l'insetto, in cui si muoveva in maniera strana, finendo per assomigliare a un tizio colpito da un attacco epilettico. È uno di quei ragazzi di cui dici, è davvero strano e voglio mostrarvelo. È stato il nostro gestore di attrezzature per un po' e quando abbiamo iniziato a suonare cose atroci, abbiamo consegnato a lui i nostri strumenti per vedere cosa sarebbe successo. La sua musica era fantasiosa. Era lui, contro la sua macchina in bocca, il suo sassofono. Euclid James Sherwood per tutti è Jim Motorhead Sherwood. Il soprannome di Motorhead gli viene affibbiato da Ray Collins, che suonerà insieme a loro nei Mothers, il quale, vedendolo continuamente alle prese con una macchina, una moto, persino un camion da riparare, si convince che abbia un motore nella testa. Il rapporto tra Sherwood e Zappa riassume perfettamente il modus operandi di Frank. Per tutta la vita si circonderà di musicisti bravi e insoliti, seducendoli, abbandonandoli e richiamandoli in causa. Dal canto suo, Jim si aggrapperà alle natiche anarchiche di Frank fin dai suoi esordi, contribuendo con il suo sax alla nascita e allo sviluppo del fenomeno Zappa. Hello, my name is Frank Zappa. Buongiorno a tutti, mi chiamo Frank Zappa e sono un musicista rock and roll, un compositore e faccio film. Prima di entrare nel business del rock and roll, scusate, avevo uno studio di registrazione a Cucamonga, in California. Cucamonga, California. Dal nome sembra un buon posto dove poter allevare stranezze. E quindi un buon posto per Frank. A Cucamonga, Zappa mette in moto la sua intensa preparazione per il grande esordio sulla scena musicale. La ricetta? Semplice. Continuare a studiare e a comporre, mettersi a fare colonne sonore di film di serie B, trovare un piccolo studio di registrazione e comprarselo, farsi una settimana in galera, andare allo Steve Allen Show a suonare delle biciclette e incontrare Ray Collins. Il tutto viene lasciato per circa 3-4 anni a lievitare e voilà, ecco pronti i Mothers of Invention. Well, 1964, if you would talk a little bit about... Allora Frank, 1964, parliamo un po' dei Mothers. Cosa vuoi sapere? Beh, non so, raccontaci com'è andata. Beh, ricevetti questa telefonata da Ray Collins, un tizio con cui avevo registrato delle robe in passato. Stava lavorando con una band in un club a Pomona e mi disse che aveva litigato in modo duro col chitarrista. Poi mi chiese se potevo sostituirlo per un weekend e così lo feci. Suonavamo principalmente musica ballabile tipo Luai Luai o The Midnight Hour. La band mi piacque e suggerì che se avessimo voluto fare una roba originale potevamo registrarla. E il leader della band, che si chiamava David Coronado, mi disse «Non farlo, non farlo! Perché se facciamo roba originale non suoneremo più nei bar e nelle serate». E beh, questo era vero. How could I be such a fool? How could I believe all those lies you told me? How could I be taken in by your sweet face? You spoil our love, you ruin my life. I'm so torn down. I Mothers of Invention sono l'occasione per Frank di tirare fuori tutto lo scibile che ha accumulato nel corso degli anni precedenti, sia a livello musicale che di contenuto. E quando diciamo tutto, intendiamo davvero tutto. Mentre alterna blues, rock, free jazz, arrangiamenti orchestrali e omaggi all'avanguardia, Zappa rincara la dose con testi stravaganti e pieni di ironia, finendo per dipingere un quadro dissacrante della società americana. Sono i primi esempi di una critica che non mancherà mai nella sua opera. La scuola prepara la gente a essere ignoranti con stile. Ti dà tutto l'equipaggiamento necessario per essere un buon ignorante. La scuola americana non ti prepara ad affrontare le cose con logica. Non ti dà i criteri fondamentali per distinguere il bene dal male, no. Ti prepara ad essere una delle vittime utili al complesso industriale militare che necessitano gli uomini di potere. Oltre all'innegabile contributo di Zappa e ai musicisti di grande livello che ne compongono l'ossatura, a cui si unirà ben presto anche Jim Sherwood, i Mothers of Invention devono dire grazie anche a un'altra persona. Una persona di grande fiuto, una persona che conosce bene il significato della parola rischio. Una persona che ha fatto un regalo al mondo in qualche modo. È il secondo magnifico destino di oggi. Il suo nome è Tom Wilson. Una canzone che ha fatto epoca non è male come biglietto da visita per un produttore, non vi pare? Tom Wilson sposa la musica nei primi anni 50, quando dopo la laurea ad Harvard decide di fondare la Transition Records, piccola casa discografica con la quale aveva in mente di ospitare i maggiori talenti contemporanei del jazz sperimentale. Qualche anno dopo approderà alle major come produttore per iniziare un percorso che lo porterà a lanciare fenomeni del calibro di Bob Dylan e Simon Garfunkel, merito del suo fiuto e della sua profonda conoscenza della musica. Ecco perché a metà degli anni 60, quando una sera si imbatte per caso in un locale nel gruppo di Frank, ha un sussulto, poi un attimo di esitazione e infine un lungo respiro prima di rendere nota una decisione presa fin da subito. Si va in studio con i Mothers of Invention. Oh, Tom Wilson era un grande. Aveva una visione, capite? E stava davvero dalla nostra parte. Mi ricordo che la prima canzone che registrammo fu Anyway the Wind Blows, ed era ok. Poi facemmo Who Are the Brain Police e vidi Wilson oltre il vetro, che immediatamente prese in mano il telefono e telefonò a New York, cercando di addolcire ai dirigenti la pillola, penso. Wilson stava rischiando davvero. Metteva in gioco il suo posto di lavoro producendo il nostro album. Si può comprendere il leggero nervosismo di Tom Wilson. Freak Out, l'album di esordio dei Mothers, è un vero e proprio grattacapo. Non è in discussione la bravura della band o la qualità del materiale, è che è diverso. Nel primo album, ma anche nei successivi, Zappa si mette a maneggiare una gran quantità di roba, oggetti di uso quotidiano usati come strumenti, qualche trucchetto preso in prestito dall'avanguardia dadaista, la psichedelia, la parodia, i grugniti, l'operetta, qualche verso di animale, persino urla e lamenti. Lo scopo, attraverso la musica, è la messa alla berlina della società consumistica e capitalista che lo circonda e che vede nei giovani le sue vittime preferite. Ma Freak Out, in fondo, è anche un disco composto da una serie di brani. Ed è questo che conta per Tom. Well, I'm about to get upset. watching my TV, checking out the news until my eyeballs fail to see. I mean to say that every day is just another rotten mess, and when it's gonna change, my friend, is anybody's guess. So I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I'll go to prayer every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. Il ciclone Mothers of Invention, guidato dal suo guru Frank Zappa, si abbatte sul mondo, ma gli effetti non si fanno sentire subito. L'album Freak Out non esaurisce subito le copie, anzi, a dirla tutta, vende pochino. Forse perché è un doppio album e non si era mai visto un doppio album per un esordio. In più, oltre a essere doppio, è anche un concept album, una vera novità. Qualche anno dopo, niente meno che i Beatles pubblicheranno The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, pietra miliare della musica, sottolineando l'influenza avuta da Frank e i suoi Mothers. Evidentemente nel destino di Frank c'è il fatto di essere talvolta troppo avanti. Ci dovrà fare i conti anche in futuro. No, non potrei onestamente affermare con certezza di aver avuto risultati positivi dall'innalzamento del livello di discussione politico, perché la gente che compra i dischi rock vuole fondamentalmente divertirsi. Non vuole parlare di cose noiose. Con i Mothers, Frank pubblicherà altri 7 album che contribuiranno ad accrescere la sua fama e a mettere a fuoco l'obiettivo. In mezzo a fluttuanti acrobazie sonore, infatti, l'America di Nixon verrà fatta a pezzi, anche e soprattutto con l'aiuto dei live, che diventano spettacoli nei quali Frank coinvolge il pubblico con trovate insolite e dissacranti. Ma l'avventura con i Mothers è un progetto a scadenza, e anche i pochi musicisti che ancora non se ne rendono conto cominceranno a intuirlo col passare del tempo. La mano di Zappa infatti si allunga sempre di più sulle produzioni, accentrando qualsiasi tipo di aspetto, dal lavoro fatto nello studio di registrazione alle esibizioni live. È una sorta di dittatura che non nasce da ambizioni totalitarie, ma è il risultato di una dedizione totalizzante che piano piano prende possesso di Frank. Tutto questo lo porterà a un livello tale di conoscenza e di capacità, per cui pochissimi saranno in grado di interloquire o quantomeno di capirci qualcosa. Se avete dei dubbi, sentite Jimmy Carl Black, batterista e cantante, nei Mothers of Invention. Qualsiasi cosa avessi imparato il giorno prima, il giorno dopo era cambiata, perché ero sempre... Sai, lui si sedeva e cominciava a suonare qualcosa. Poi diceva, fai questa roba. Io dovevo mettermi lì, metterla su un foglio e poi cercare di memorizzarla. E poi magari il giorno dopo lui aveva cambiato. Aveva dato questa cosa a un altro musicista. Se non vi dovesse bastare, vi possiamo venire ancora incontro. Ascoltatevi Brown Shoes Don't Make It e capirete di cosa stiamo parlando. In più di 8 minuti c'è condensato tutto il sapere e l'ardire musicale di Frank e dei suoi Mothers. TV dinner by the pool. Put your brother by me. Got another year of school. Good, okay, he's too weird. Be a plumber, he's a bummer, he's a bummer. Every summer, be a loyal plastic robot for a world that doesn't care. La fine dei Mothers coincide con l'evoluzione del suo leader carismatico a cavallo tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Zappa decide di prendere il largo, ma non prima di avere idealmente chiuso il cerchio con i Mothers, grazie a Uncle Meat, un doppio album che racchiude in sé diverse interpretazioni. È la colonna sonora di un film che uscirà quasi 20 anni dopo. È un album in cui Zappa si diverte a mischiare le tecnologie che stanno invadendo la musica, ma è anche la marcia di avvicinamento a un suo vecchio pallino, la musica classica. E infine, naturalmente, è il solito cazzotto menato allo stomaco del suo paese. Se c'è un momento in cui riflettere e sollevare delle critiche, questo momento non è domani e non era ieri. È sempre adesso. Ascoltare i telegiornali. C'è sempre qualcosa che merita di essere preso in giro ogni giorno, ogni minuto. Se potessi realizzare un album al giorno, non avrei problemi nel reperire il materiale. È sempre lì a disposizione. È chiaro che Frank ha dato un segnale con la sua musica, un segnale diverso che non tutti sono in grado di decodificare, ma di cui è impossibile non avvertirne la forza. Continuerà in questo modo Zappa a sondare le profondità più buie e nascoste della musica e dell'animo umano e a organizzare e combattere la sua rivolta contro il mondo, chiuso in uno studio di registrazione oppure davanti a una platea o ancora in qualche intervista. We'll be right back. Ho io un punto di vista molto cinico. Penso che essere cinici sia un valore positivo. Penso che nessuno dovrebbe avere fiducia nell'altro. Penso che la gente sia stronza finché non mi dimostra il contrario e penso che se tu assumi questo punto di vista la vita ti deluderà di meno. Se tu ti aspetti il peggio dalla gente, le volte in cui faranno qualcosa di carino sarà piacevole. Se tu pensi che la gente sia buona, rimarrai sempre deluso. Perché, andiamo, non gliene frega niente. Non aspettatevi amici, non aspettatevi divertimento, non aspettatevi una bella vita, non aspettatevi niente. E se qualcosa vi arriva, è un regalo. Ma ai magnifici destini siamo attenti, come voi, alle parole sempre incisive del maestro Frank Zappa, anarchico e solitario cavaliere underground che ha scelto la musica come mezzo per condurre la sua surreale e personale lotta contro il mondo, in particolare contro la società americana. Una vera e propria missione in cui i suoni arrivano alle orecchie sotto forme nuove, ardite e a tratti oltraggiose. È la musica di Frank Zappa, l'espressione di una forma che sta cercando un compimento. Uno degli esempi più evidenti della lucida follia di questo artista è il suo rapporto con la musica classica, specialmente quella di orchestra. C'è in Frank un innato desiderio di poter unire la musica più antica con quella moderna attraverso lo studio e contando su una totale fiducia nelle proprie capacità. Questa indole si rivela ogni volta che si mette in testa di guidare qualcuno. Quando parte un suono, infatti, Zappa è lì, pronto ad assumerne il comando e successivamente a indicargli la strada. L'ombra di se stesso che il protagonista proietta sul muro è quella di un moderno direttore d'orchestra psichedelico. È un'ossessione che si porta dentro fin dai suoi primi abbozzi. Allora, il prossimo segnale sono due dita alzate. E vuol dire che dovete fare un rumore basso. Potete fare... qualsiasi tipo di rumore vogliate fare con la bocca. Fate così quando faccio vedere le due dita. Siete pronti? Ora veniamo a voi. Della band, due dita girate verso il basso significa che dovete fare un rumore basso con i vostri strumenti. Una sorta di battito sordo, come se fosse un punto esclamativo. Il dito medio verso l'alto è l'opposto. Fatemi sentire il vostro suono più alto. Cominciamo dall'alto. La volontà di Frank Zappa di trovare un punto di raccordo tra la musica classica e la musica moderna, a ben vedere, ha un'origine. È una storia nella storia, il solito assurdo e inimitabile fotogramma che compone il suo strano album di vita. Un destino magnifico di nome Edgar Varese. Tutto ha inizio in un negozio di dischi. Avevo circa 13 anni quando su un giornale lessi un articolo che parlava di un negozio di dischi. L'articolo lodava l'abilità del negozio nella vendita del proprio merchandising. Un esempio descriveva come, attraverso qualche misterioso inganno, il negozio era riuscito a vendere un album chiamato Ionizzazione, che in realtà si chiamava Opera completa di Edgar Varese, volume 1. L'articolo descriveva il disco come uno strano miscuglio di tamburi e altri suoni sgradevoli. Per la cronaca, Edgar Varese è un compositore che dal 1915 comincia una lunga spola tra la Francia e gli Stati Uniti per dedicarsi alle sue composizioni. Una musica che si basa sul tentativo di raggruppare suoni diversi, non necessariamente strumentali, utilizzando risorse nuove per quei tempi, come per esempio l'elettronica. Una sorta di pioniere. Tutto oro che luccica per Frank, che parte alla ricerca di Varese. Qualche mese dopo stavo passando davanti a un negozio di hi-fi alla mesa. Un piccolo cartello nella finestra annunciava una vendita di 45 giri. Dopo aver trovato un paio di dischi di Joe Houston, mi stavo dirigendo verso il registratore di cassa. La mia attenzione venne catturata da un cestino pieno di LP. Seduto nella parte anteriore, solo un po' curvo in corrispondenza degli angoli, c'era una strana copertina in bianco e nero di un album. Su di essa c'era una foto di un uomo con i capelli grigi, crespi. Sembrava uno scienziato pazzo. Ho pensato che era fantastico che qualcuno avesse finalmente fatto un disco su di uno scienziato pazzo. L'ho guardato meglio. Oh, e quasi me la facevo nei pantaloni. Era lui. Le opere complete di Edgar Varese, volume 1. Volete sapere cosa hanno in comune Frank e Varese? Questa è Ionizzazione, appunto. Non l'album che non esiste, ma bensì una delle opere di Varese. Dalla musica che state ascoltando è facile capire perché Frank si sia innamorato delle composizioni di Varese. Forse è nato tutto da lì. Forse Frank Zappa è diventato Frank Zappa grazie a Edgar Varese. Il chitarrista americano sottolineerà più volte il suo debito verso il compositore francese, pur fallendo nel tentativo di conoscerlo di persona. In un certo senso Zappa diventerà l'erede naturale di Varese, continuando la sua pionieristica ricerca di un punto d'incontro per le musiche di tutte le epoche. Un punto da cui proseguire. Un'impresa praticamente impossibile. Nel 1970 Frank incontra il direttore d'orchestra indiano Zubin Mehta, uno dei più bravi e noti al mondo, individuando proprio in lui colui che avrebbe potuto portare a compimento la ricerca iniziata da Varese. Frank convince il direttore d'orchestra a musicare, mischiando tra loro le competenze, una sua opera intitolata 200 Motels, in cui Zappa descrive la vita di una band rock in tour. Il risultato sarà un'opera bootleg, eseguita all'Università della California, in attesa di apparire in un film qualche anno dopo, come d'abitudine per Frank. Sebbene il concerto raccolga un discreto successo, per Frank Zappa il tentativo con Mehta rimarrà una piccola delusione. La sua insoddisfazione diventerà una costante che tornerà a galla durante la restante carriera. Chissà cosa si aspettava. Ci riproverà qualche anno più avanti, con la London Symphony Orchestra. Nelle poche volte che capiterà sull'argomento, Zappa si lamenterà della troppa distanza emersa tra il materiale proposto e i soldi e il tempo spesi per realizzarlo. Questo significa che ogni volta che qualcuno scrive un pezzo di musica che nessuno ha mai sentito in vita sua e affida questa musica a dei musicisti e loro non hanno abbastanza tempo per studiarla e mettere a punto i dettagli, le chance per una performance assolutamente perfetta non sono alte. Con la quantità di denaro che ho messo a disposizione per produrre un album così, considerato che anche io ho dei tempi e devo programmare, era praticamente impossibile rendere un lavoro così complesso assolutamente perfetto. Ma ci abbiamo provato. I am gross and perverted. I'm obsessed and deranged. I have existed for years, but very little. I'm the tool of the government and industry too, for I am destined to rule and regulate you. Gli anni 70 rappresentano probabilmente il culmine della carriera di Frank. Più di 20 album in un decennio, una produzione sterminata con cui porta avanti il proprio progetto solista, cominciando con album come Lumpy Gravy e Hot Rats. Ma è difficile parlare di lavoro solista per uno che è abituato ad avere il palco e lo studio piuttosto affollati. La verità è che i Mothers diventano una sorta di mostro mitologico, senza forma, senza testa, in cui si alternano musicisti di livello assoluto, tutti preparati e soprattutto in grado di stare dietro all'inesauribile Zappa, che in quel periodo si toglie anche lo sfizio di venire citato in una delle canzoni rock più famose di sempre. Smoke on the Water è rock allo stato puro, con quella scala distorta di chitarra che ti entra nella testa fin dall'inizio. Forse non tutti sanno che il fumo nell'acqua che dà il titolo alla canzone fa riferimento a un periodo in cui si è trovato suo malgrado protagonista proprio Frank. Nel 1971 a Montreux, sede di uno dei festival musicali più famosi del mondo, Zappa sta portando a termine il solito grande show quando uno spettatore decide di sparare un razzo segnaletico all'interno della sala, causando un pericoloso incendio. Dalla camera del loro hotel, i Deep Purple osserveranno il fumo del casinò spandersi sopra il lago di Ginevra e decideranno di musicare quella strana versione. Zappa passa da guru a musa ispiratrice e la leggenda continua. A Al di là delle citazioni, il lavoro di Frank prosegue senza sosta. Certo, conoscerà alti e bassi legati più che alla qualità, all'inevitabile confusione che ogni tanto il suo lavoro genererà nel pubblico. Non tutti sono in grado di farsi luce nelle nicchie buie in cui Frank si butta. Non tutti sono in grado di apprezzare un disco fatto solo di assoli di chitarra o di afferrare i significati di alcune sue parodie. Non tutti colgono la raffinatezza di un giro di basso in 19 ottave. È il destino ineluttabile dei geni, quello di non essere sempre compresi. Alla fine, probabilmente, è meglio scherzarci un po' su. È divertente da fare per te? Rendere le cose divertenti? Sì. Beh, non è certo spiacevole. It's not unpleasant. You know your mama and your daddy. I'm no good for you. They call me dirty from the alley. Well, I don't know what to do. I get so tired of sneaking around just to get to your back door. Thank you. It's an awesome response. Oh, grazie. È davvero una grande responsabilità essere stato selezionato tra milioni di persone per diventare la bandiera del nuovo look della NBC. Oddio, spero di essere all'altezza. Questa sera suoneremo una canzone che parla di un problema sociale molto importante: la discoteca. Ha a che fare con persone sole, senza alcun naturale senso del ritmo, che ballano in una pista. Si chiama Dancing Fool. 1, 2, 3, 4. I don't know much about dancing, that's why I got this song. One of my legs is shorter than the other and both my feet's too long. Of course, not right along with them, got no natural rhythm. But I go dancing every night, hoping one day I might get it right. Oggi ai magnifici destini stiamo tentando di stare dietro alle piroette underground del funambolico Frank Zappa, moderno Don Chisciotte impegnato a combattere la propria guerra contro i mulini a vento americani. Fin dagli inizi la sua battaglia non si è limitata alla musica, ma ha cercato altri sbocchi, primi fra tutti la televisione, strumento di cui Frank non ha mai fatto mistero di servirsi per lanciare le sue stilettate contro la società a stelle e strisce. Lo abbiamo appena sentito al Saturday Night Live, dove ha bazzicato per un po' verso la metà degli anni 70, mettendo in scena alcuni memorabili sketch musicali niente meno che col grande John Belushi. Più in generale, Frank, ogni volta che ha potuto, si è seduto davanti a una telecamera per dire la sua. La generazione che sta facendo uso di droghe adesso, direi che è meglio se lasciano perdere. Ma penso che ci sia speranza guardando i più giovani, i ragazzini o gli adolescenti, perché hanno la possibilità di vedere con i loro occhi i fratelli e le sorelle più vecchi inciampare e rotolare giù ed evitare gli errori che loro hanno fatto. E forse è giusto avere qualcuno che ti mostri com'è. È una battaglia lunga e senza esclusione di colpi, quella di Frank. Una battaglia in cui non mancheranno colpi di scena, come quando nel 1991, pochi anni prima della morte, decide di candidarsi come indipendente alle presidenziali americane con lo slogan «Potrei mai fare peggio» di Ronald Reagan, salvo poi mandare tutto all'aria. Sono centinaia le frasi e i pensieri espressi nelle interviste in cui Frank, occhio puntato alla telecamera, sguardo serio e gran padronanza di linguaggio, sciorina tutta la sua visione del mondo. Quasi sempre imperturbabile, tranne qualche piccolo caso sporadico. You really believe that? Yeah, I believe it. You're an idiot, then. Yeah? You're an idiot. Mister, tell you what, kiss my How do you like that? Take your teeth out. Tra tutte le lotte, quella contro la censura, che naturalmente lo tocca da vicino, è forse quella che conduce con maggiore decisione. E quando un'associazione americana stanca delle sue provocazioni proverà a fargliela pagare, Zappa sarà felice di sedersi in tribunale per difendere il diritto di espressione. Lo farà da solo, con la sola forza della sua eloquenza e della sua conoscenza, regalando un discorso memorabile in cui accuserà i suoi detrattori di voler risolvere il problema della forfora tramite la decapitazione. Questo è Frank Zappa. Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth is shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. C'è ancora un nodo da sciogliere prima della fine. riguarda l'ultimo magnifico destino di oggi. È difficile stabilire, alla luce dei tanti musicisti che si sono alternati sul palco con lui, chi abbia avuto un legame particolare con Frank, per non parlare di chi in qualche modo gli è debitore. Captain Beefheart, Alice Cooper, Steve Vai, Ian Underwood, Vinnie Colaiuta, Van Morrison, persino i Duran Duran. La lista è lunga. Ma a ben vedere forse ce n'è uno che con Frank si trova sia in debito che in credito. Il suo nome è Johnny Guitar Watson. Watson il suo soprannome lo deve al film western Johnny Guitar, interpretato da John Crawford, anche se lui alle Colt ha sempre preferito il manico della chitarra. Quando aveva 11 anni, stiamo parlando del 1946, il nonno cedette alla tentazione di regalargliene una, la prima, condizionando il dono con la promessa di non suonarci mai la musica blues, da lui considerata la musica del diavolo. Beh, la musica blues è la prima cosa che Johnny Watson ha suonato. I'm working 40 hours, 6 long days, and I'm highly embarrassed every time I get my pay. Lord, they're working everybody. Lord, they're working poor folks to death. When you pay your rent and your car, no gain, got a damn thing left. Ain't that a big itch? Zappa ammetterà pubblicamente più di una volta l'influenza e l'ispirazione che la musica e la tecnica di Johnny gli hanno fornito. In quanto a tecnica, Johnny in effetti era un mostro, ma le classifiche nella musica valgono poco. Il valore di Watson non è legato solo alla sua bravura con lo strumento, ma anche alla voce, alle canzoni che ha scritto, agli abiti luccicanti con cui si è buttato nel mondo del funk. Frank avrà l'onore di ospitare Johnny in più di una occasione nei suoi dischi e nelle esibizioni live, a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80. Perché è questo che due amici come loro fanno insieme. Suonano. C'era molto lavoro duro, ma ti voglio dire una cosa. Suonavo nella miglior band del mondo. Musicalmente era la migliore band del mondo. E ho sempre pensato che noi fossimo la migliore band del mondo. Nessuno riuscirà mai a convincermi del contrario. Le parole di Jimmy Carl Black rendono giustizia a un fatto che contiene in sé la propria evidenza. La musica di Frank è sempre stata di altissimo livello, questo è fuori discussione. La tecnica, la complessità e la conoscenza sono tutti elementi che emergono quando ci si avvicina alla sua produzione. Ma l'analisi, o anche solo l'ascolto e l'apprezzamento di questo insolito cavaliere underground, senza maschera e senza paura, non può prescindere dal messaggio che ha voluto unire a ogni nota e scritto in ogni riga sul pentagramma. Un messaggio forte, che non ha mai vacillato e che, come ci ricorda la moglie, trae la sua forza dal valore che ha sempre sostenuto Zappa, la voglia di cambiare le cose. Frank è un ragazzo che ha vissuto con l'idea di aspettarsi l'inaspettato. O detto in un altro modo, giudica tutto contemporaneamente in modo che tu non stia mai giudicando. Nel senso che o giudichi tutto nello stesso momento oppure non lo fai mai. È la stessa faccenda. Non rimani fisso su ciò che è successo in precedenza, perché le cose possono continuamente cambiare e lo fanno. And they do.